Nel pomeriggio vidi il Frank offrire caffè e sigarette come un soldato americano nel dopoguerra, italico e straccione. Suonò la sirena, ma nessuno si avviò verso il proprio posto di lavoro. Era come se il Frank avesse portato una ventata di gioia ed energia in azienda. Vidi il giovane capobranco strusciato dalle migliori femmine, tutte in temperatura da atto di riproduzione. Sentivo i loro ormoni nell'aria. Mi davano solo fastidio, sentivo prurito al naso per i troppi estrogeni nell'aria. E non erano per me. Non ero io il maschio eletto per l'inseminazione. Anche i facchini della cooperativa gli resero omaggio per ragioni a me sconosciute. Pacche sulle spalle e battute a sfondo erotico. Non avrebbe dovuto importargli nulla del miracolo della macchina di collaudo. Si trattava di uomini rudi, padri di famiglia senza grilli per la testa. Non si spiegava la loro simpatia per un ventenne ornato da 4 orecchini per lobo, dedito alle droghe sintetiche e alla demolizione di auto nel fine settimana. Con un paio di sberle sincronizzate potevo stracciargli le orecchie, sentire le sue urla incredule, vedere il sangue sul colletto della camicia. Potevo scegliere un gesto definitivo e dignitoso, morire di morte aziendale violenta, non crepare lentamente nel letto cagandomi nel pannolone. Il mio gesto mi sarebbe valso il licenziamento in tronco e una denuncia penale. Decisi infine di ficcarmi in bagno, prima del suono della sirena, per un tiro di eroina, ma un piede mi impedì la chiusura della porta. «Mi offri la mazza caffè? Prossima volta pago io. La uso anch'io, sai, ma la fumo nella stagnola. Non fare quella faccia, con me puoi giocare a carte scoperte. Siete degli idioti, va sparata in vena. Ma tu la tiri?» Hai le pupille piccole come capocchie di spillo e le braccia pulite. Quelli come te predicano bene e... i soliti comunisti del cazzo. Non sono cazzi tuoi. Pensavo che le teste di merda come te andassero a pastiglie e cocaina. Ma poi bisogna pur dormire qualche ora se la mattina vuoi fare il bravo operaio del cazzo. Riconosco che non è male, ma per agire serve altro. Devi essere più che lucido. Per fare cosa? Per sabotare una strumentazione di collaudo? Esatto, vecchio. Bell'esempio. Mio padre aveva ragione. Sei un genio. Il Frank tolse il piede. Era entrato qualcuno in bagno. La porta sbatté violentemente e io misi il chiavistello. Pisciai e basta. In quel momento l'eroina mi sembrò un'ammissione di debolezza più che di resistenza. E poi dovevo tornare all'imballo. Il mio compare era paonazzo. Lui mangiava a casa per pasteggiare a vino. Imballammo una commessa di kit tra i più rognosi. La scatola era pesante, composta da molti particolari. Compressore, condensatore, evaporatore, kit di montaggio. Sbagliare, dimenticandosi di inserire qualcosa, sarebbe stato facile. Si è obbligati a datare e firmare i fogli della distinta. Eventuali errori rilevati dal cliente non cadono nel nulla. Si riesce a stabilire chi ha sbagliato. Il cartaceo delle distinte viene archiviato. I richiami possono arrivare postumi, anche dopo mesi. Invece lavoravamo perfettamente sincronizzati, veloci e precisi. Le vene dei miei avambracci in evidenza, come non mai. L'intesa con il mio collega sembrava magica e non aveva bisogno di parole. È l'estasi produttiva. In fondo sono padano anch'io, condannato a un senso del dovere ottuso, ereditato dai genitori che si fa idiozia. Colsi l'ombra del capetto che scorreva alle mie spalle, deluso di tanta efficienza. Poi ci ripensò e tornò sui suoi passi. «Ale, le cuffie!» «Che hanno?» «Le cuffiette della radio, togliile!» «È uno scherzo?» «Oggi è passato il capo dei servizi generali e ti ha visto. È vietato dalle norme antinfortunistiche.» «Sono su Candid Camera?» «Vedi tu. Tra 10 minuti ripassiamo con il Gemba Tour e ti voglio vedere senza orecchini. Comunque da domani voi dell'Alfa tornate di là. Sono arrivati degli ordini.» Avevano deciso di farmi andare fuori di testa. Si dovevano essere riuniti e stavano iniziando una lenta strategia della tensione. Con gli applausi in sala mensa avevo passato il segno. Sono ignoranti, ma non stupidi. Tutti sanno quanto per me sia vitale astrarmi da questa fogna con l'MP3. Mi pentii di averlo ribadito più volte di fronte a vari interlocutori, anche gente poco fidata. Dovevo parlare meno. Pensate che sia una mia paranoia? Pensate che sono le paranoie a salvarmi, a dare un senso alla mia inutile esistenza? Ammettere di essere pulviscolo sugli ingranaggi sarebbe la morte. State pensando che il minchione a capo dei servizi non sa nemmeno come mi chiamo. La verità è che per giustificare il suo grosso stipendio deve imporre piccole regole previste dalla normativa 626 sulla sicurezza e solo oggi si è accorto delle mie cuffiette. La verità è che ha motivo di temere per il suo posto di lavoro, almeno quanto me. Ha visto colleghi sparire nel nulla nel quadro dei ridimensionamenti di personale che hanno coinvolto esponenti della borghesia medio-alta. Lo vedo armeggiare fin dalle 7 del mattino in ufficio con la porta aperta sul corridoio bianco. Spesso si trattiene fino alle 7 di sera. La luce del video illumina il suo terrore. Simula impegni lavorativi oppressivi per urgenza e quantità. Di recente le morti bianche sono risalite di gradimento nei sommari di telegiornali, rafforzando la loro posizione professionale. Di ritorno dalla missione alla linea Ferrari, avrà segnalato il misero caso di una bestia all'imballo con le cuffiette proibite. Il lavoro sporco è stato affidato al capetto, che non chiede nulla di meglio che rompere il cazzo a una sociale come me. Cristo, è tutto così tremendamente semplice. Potevi sabotarla tu la linea. Devo proprio insegnarti tutto? Il Frank era di nuovo alle mie spalle. I mulettisti non fanno davvero un cazzo. Su 8 ore ne lavorano 2. Il Frank forse nemmeno una. Realizzai che ero andato a pisciare 2 volte e non mi era passato per il cervello di tirare fuori la bustina di roba. Mi ero concentrato sull'urina. Scura, molto torbida, schiumosa. Pisciavo Guinness e cagavo calce bianca e liquida e non avevo nessuna intenzione di rivolgermi a un medico, né di fare esami clinici. In che modo? Non ci capisco un cazzo di macchine. Per sabotarla avrei dovuto prenderla a martellate e mi avrebbero beccato. Ok, vecchio, la tecnologia è la mia parte. Il punto è che i nemici devi fotterli, devi guadagnarti la loro fiducia, poi colpisci. I nemici non devi ignorarli con le cuffiette e le medicine, o saranno loro a incularti. Parlavamo liberamente a voce piuttosto alta. 2 dell'intelligence di questo building avevano già fatto 2 passaggi molto radenti, un paio di voli di perlustrazione. Avevano sgranato gli occhi, ma non riuscivano a decifrare la situazione. Nemmeno io, del resto. Il Frank nel pomeriggio appariva energico e rilassato. La chimica farmaceutica fa miracoli. Il mio compare decise di sparire in bagno, tanto eravamo in netto anticipo. Stavamo finendo tutte le distinte di giornata ed erano solo 4:30. Il mio collega mi sa che ha mangiato la foglia. Dovresti stare più attento. Più che mangiare, il tuo collega beve. È il pazzo del reparto e tu sei sulla stessa strada. Non è un caso che ti hanno messo con lui a fare il lavoro più infame. Ripigliati. Ma tu che cazzo vuoi da me? Sei la mia missione, la mia buona azione, il compito per le vacanze. Insieme qua dentro ci possiamo divertire, ma devi svegliarti. Non vedi che sono tutte larve, esseri inutili? Ho solo il vomito, mi fanno schifo tutti. Anche le 3 fighette di stamattina? Ti piacciono quelle 3 puttanelle? Ok, saranno il tuo bottino di guerra, ti accontenti di poco. Una poi l'ho già scopata, niente di particolare. Vendevo la coca al suo fidanzato. A lui facevo sempre molto bene, una specie di risarcimento. Povero idiota, non si spiegava il perché gli regalavo qualche tiro. Non la smetteva di ringraziarmi. Ancora non capisco. Non ho ancora un piano preciso. Non so come utilizzarti. So solo che la pensi come me. Disprezzi tutti e non hai più un cazzo da perdere. Entrare in bagno dopo di te è stata un'esperienza. Sei marcio, dentro. Cazzi miei, non voglio rotture di palle. Voglio solo che questi figli di puttana continuino a pagare a regolare ogni mese. Ho bisogno di pagare il mutuo, cose così. Sbagli, queste sono giustificazioni alla merda che sei diventato. Ti stacco la testa. Guardati, non era meglio finire con una siringa piantata nel braccio, 20 anni fa? Il mio compare riappare giusto in tempo per sentire l'ultima frase. Finì di allacciarsi la cintura. Mi guardò, poi fissò il Frank. Sembrava aspettare un mio cenno per colpire. La sua muscolatura non era definita, aveva il ventre da bevitore di birra, ma era sui 90 kg e con 2 badili al posto delle mani. Il Frank ha la struttura esile, a cucchiaio, come piace alle donne, una magrezza spigolosa e avvolgente al tempo stesso. È alto, ma se lo avessimo preso in due con la rabbia da perdenti, gli avremmo asportato le costole una a una, prima di andarcele a mangiare nella nostra tana. Il Frank, quando parla, scuote i nervi. Suo padre era un coglione, non avevo messo in conto che la genia può migliorare, generando mostri inattaccabili. Non mollava la presa. Continua a tenerti tutto quell'odio dentro, senza reagire. È così che vengono i cancheri. Giovedì mattina eravamo tutti carichi di energia. La cassa integrazione e la migrazione verso altri reparti era finita quasi senza iniziare. Sembrava una falsa partenza, una prova generale di una morte annunciata. Le berline del nostro cliente avevano avuto buoni successi commerciali, ma le due auto si avviavano fatalmente verso la fine della produzione. Il nostro management non aveva trovato altri business per commesse altrettanto importanti. Ma nessuno se ne preoccupava. Eravamo tornati nelle nostre acque putride, ma prive di insidie. E tanto bastava per una mesta felicità a breve termine. Scherzavamo. Anch'io non riuscivo a essere cupo e disarmonico come al solito. Toccavo il culo alle ragazze, fingevo volgarità, nei limiti che mi consentivano. Queste creature non mi piacciono, io non piaccio loro, io non mi piaccio. Ma giovedì mattina tutto mi sembrava luminoso, uno di quei giorni in cui mi pento di tutti i cattivi pensieri, della negatività che sprigiono, dell'odio sordo che provo per le creature che popolano questo luogo. Aria carica di ossigeno e buoni sentimenti. In fondo, non ci sono esseri davvero malvagi in questa azienda. Presi uno alla volta, sanno stupire per umanità e simpatia. Certo, a volte hanno reazioni contraddittorie, ma tutto rientra in una sana complessità umana. Ecco quello che avete pensato leggendo queste pagine. Di certo le mie tesi, la mia ottica, non vi hanno convinto. Anche i caporeparto sono esseri con una loro generosità. La casta dei dirigenti, con il codazzo di cortigiani privilegiati, l'avverto come onda protettiva che salvaguarda il mio quieto produrre senza implicazioni intellettuali. Amen. Siamo padani, sud-est padano. Siamo fatti così. In Emilia abbiamo finto di credere al socialismo reale, a una rivoluzione dolce. Un sano pragmatismo ci ha preservato dalla fantasia al potere. Abbiamo creato laboratori di buon governo locale, zone artigianali e industriali ordinate e gravide. Possiamo vantarci di non aver mai votato Balena Bianca. Eravamo un modello di concertazione. Ancora oggi ci pigliamo per il culo vantando Ferrari e Ducati. Continuiamo a raccontarci un sacco di cazzate. Meglio del Nord-Est, terra di nani da giardino e lap dance. Ma finiremo male, comunque. Ero tornato al mio carretto dopo i giorni al reparto in ballo. La catena di montaggio era ripartita. Ero sereno, intontito e beato. L'abitudine è un potente narcotico. Ripresi il lavoro che so eseguire correttamente nei tempi previsti dallo standard work. Ogni volta mi stupisco di come una parte di me, la più grossa e determinante, possa affezionarsi a questa prigionia. È una reclusione part-time. Tecnicamente siamo uomini liberi. Le ore esterne ci consentono una breve mutazione da produttore a consumatore. Brulichiamo nei centri commerciali, nello struscio delle città di provincia, stazioniamo davanti ai bar di piazza. A rimettermi di cattivo umore ci pensò la frenata di un muletto alle mie spalle. Per poco non venne investito in pieno. Vedi il problema qual è? Hanno ragione i capi. Non senti i pericoli con le orecchie tappate. Non dovresti girare con un mezzo a quest'ora. Avrei ragione io. Avresti la ragione e un piede fracassato. Io ti castro. Immagino. Comunque fregatene delle cuffiette, buttale, distruggi l'MP3. Fagli vedere che puoi farne a meno. Devi stare al gioco, devi sporcarti, devi rischiare. Come ho fatto io. Cosa hai fatto di preciso alla macchina di collaudo della Ferrari? Lo sai benissimo. Ma come hai fatto? Vuoi particolari tecnici? Oh cazzo, non li capiresti. Provaci. Allora, corso breve di nuove tecnologie per dinosauri. Diciamo che ogni PC ha memoria. Non si fa di eroina come te. Io l'ho lobotomizzato per un po' di ore. Ho messo una memoria vuota. L'ho reso idiota come te. Poi gli ho rimesso il suo pezzetto originale. Con te non ci sono pezzi di ricambio, mi spiace. Sei un genio della tecnologia. No, è questo posto che è pieno di vecchi analfabeti. Anche i capi sono molto stupidi. Siete destinati all'estinzione. Morirete lentamente. Avrete 2 anni di cassa integrazione straordinaria, circa 700 euro al mese. Poi sarà disoccupazione e miseria. Mio padre sa tutto, è uno del partito. Dice che questa fabbrica ha i mesi contati. Verrò a pisciare sulla vostra tomba. Del mio MP3 che mi dici? È un modello sorpassato, ma ha tutte le funzioni di cui necessiti. Non fa i pompini, se è questo che vuoi sapere. Ha la funzione REC? Credo di sì. Certo che ce l'ha. Vedi questo pallino? Hai notato che è acceso? Vuoi sapere da quando? Grande vecchio, vedi che sai stupire quando vuoi. Ma la tua etica è incrollabile. Non faresti mai la spia con la direzione. La delazione, per uno come te, è impensabile. Ecco perché rimani coglione a vita. Per cose così. Il Frank aveva gli occhi spenti e il pallore di un'altra dimensione. Una patina di sudore sulla fronte e sul dorso delle mani. Sembrava Domopak trasparente. Forse aveva avuto una serata delicata. Poteva aver scopato una delle segretarie amiche sue, o tutte e due insieme, tra un tiro e l'altro di cocaina. Una sigaretta spenta gli penzolava dalla bocca. Si teneva a distanza di sicurezza dal movimento disumano che animava la zona armadietti. Il nucleo delle operaie pareva bastare a se stesso. Lui non era più la novità. Nessuno ricordava il miracolo della macchina di collaudo. Tutto passa in fretta in fabbrica e non lascia segni. Un giorno brucia quello precedente, lo annulla. È sempre l'esotico a scaldare gli ormoni. Le ragazze si danno di gomito a ogni faccia nuova, che sia un tecnico di un'impresa esterna o il giovane prete venuto a benedire, e lui è déjà vu. Qualcosa deve modificare il quadro. Se vuoi scoparne una, devi sbrigarti. Le tattiche attendiste non funzionano. Dopo pochi mesi di convivenza, il tuo cazzo ha la stessa attrattiva di un avvitatore elettrico. Le ragazze giovedì mattina si facevano le feste, almeno un paio di loro. Quando si lasciano andare, in particolari momenti, hanno riguardi che sembrano vicini al lesbismo da collegio. Quelle che erano state in cassa integrazione ne avevano approfittato per andare dalla parrucchiera. Sembravano più carine. In generale, la pausa di un giorno dalla linea dell'Alfa aveva donato a tutte. Si erano accumulate piccole novità da narrare. Qualcuno in paese era morto, qualcuno era incinta, i rancori personali erano stati accantonati, eterne ferite che sarebbero tornate a infettarsi in poche ore. Ci dovrebbero essere più spesso periodi di cassa integrazione soft che scivolano in dolore. Sono scricchiolii che ancora non mettono angoscia. Le prime crepe. Cassa integrazione a rotazione. Estinzione delle ore accumulate in flessibilità durante periodi di vacche grasse, esaurimento ferie individuali, mancato rinnovo di contratti a tempo determinato, inventari supplementari. Un cataclisma di portata immane sta comunque per abbattersi su questa struttura e su altri luoghi simili a questo, indipendentemente dalle mie intenzioni cruente. Questa azienda si prepara a lasciare orfani i suoi cuccioli nati ciechi.